Buongiorno, signore. Come sta? Bene, e lei? Molto bene, grazie. Mi piace. L'italiano. L'italiano. Mi piace. L'italiano. L'italiano. Sono americano. Sono italiana. Vivo a Roma. Mi piace l'italiano. L'italiano. Mi piace l'italiano. L'italiano. Sono americano. Sono italiana. Vivo a Roma. Buongiorno, signora. Buongiorno, signore. Come sta? Bene, e lei? Molto bene. Mi piace l'italiano. L'italiano. Mi piace l'italiano. L'italiano. Io sono americano. Buongiorno, signora. Buongiorno, signore.